Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier. Lo so che esiste un pregiudizio acclarato sul rapporto tra donne e tecnologia. Lo so che il pubblico umarellico in ascolto non farà che sottolineare il fatto che le donne nulla hanno a che fare con la tecnologia, che è un'attività prettamente maschile. Ma come già più volte ho cercato di dimostrare in questa trasmissione, io sono fermamente convinto del contrario. Io trovo che perlomeno nel nostro paese, perlomeno in questo particolare momento storico, perlomeno in questa singolare qualità spazio-temporale in cui noi siamo calati, la tecnologia in realtà ha un rapporto seducente, sinuoso, soggetto più alle mani femminili che a quelle maschili. Voi direte che è senz'altro blasfemia affermare questo, le donne non sanno solamente dove mettere le mani quando c'è un meccanismo di tipo tecnologico. Sono le donne che lo fanno per civetteria, secondo me. Lo fanno per questa loro antica necessità di dimostrarsi soggette a un'attività maschile che comporti appunto sforzo fisico e mentale. Devono fingere di essere subordinate al maschio non più dominatore che hanno accanto per compiacerlo, per farlo contento, per rassicurarlo. Io sono radicalmente convinto, nella mia osservazione personale e nel corso della mia avventura esistenziale, che in realtà le donne, dal momento in cui il nostro paese, uscito dalla guerra, si è affacciato con grande lussuria, con grande desiderio al mondo del consumo, al mondo del progresso, sono state le prime a mettere mano nella tecnologia. Qual era la differenza fondamentale fra una cucina del 1929, 30, 40, 42, 44 e una cucina del 1960? Che c'erano le macchine, c'erano gli elettrodomestici. Nel 1960, 61, 62, andando avanti, fino ai felicissimi anni 80, è stato un crescendo di popolazione elettrodomestica nelle cucine degli italiani. E chi se ne occupava di queste cose se non le donne? La lavatrice è stato uno dei primi meccanismi insondabili per l'animo maschile entrata nelle cucine italiane. E poi sono andati avanti i robot tuttofare, gli aspirapolvere, il ferro da stiro complicatissimo nella sua possibilità di essere adattato ad ogni tessuto. E poi andando avanti ancora la lavapiatti. È un mistero dove si mettono a lavapiatti i vari liquidi. Si fa prima a lavarli a mano, però le donne sanno, si tocca e tutto esce pulito e splendente. Andando avanti ancora, anche il televisore, anche le prime macchine delle meraviglie, anche le nostre protesi emozionali più raffinate, al loro esordire nei nostri salotti, erano oggetto di cura e di manutenzione femminile. Le donne cambiavano le valvole agli antichi televisori, le donne muovevano l'antenna a ciò si cogliesse il segnale giusto per vedere il primo canale in bianco e nero e tremolante. Le donne capivano che bisognava dare il calcetto, la bottarella, il colpo di gomito, la capocciata nel punto giusto perché funzionasse il televisore. Quindi nessuno come le donne hanno la padronanza, la tecnologia. 800240024. Io questa mattina cercherò questo di dimostrare. Smentitemi se ne siete capaci. Il sale te l'ho dato. A luce non domanda. Il detersivo te l'ho messo. O mano della ADL che ti aveva fastidio te l'hai già spostata. O rubinetto e l'acqua te l'hai già aperta. O programma chi ti è morto te l'hai già messa. Che cazzo ti manca? E chi che non vuoi faticare? Voglio avere te piuttosto, tu o io. Pozzitto sangue, ma mi è venuta la voce. Hai ragione che sei pesante, non ti posso zittare la coppa bassa. Mannaggia la vostra figlia, chi l'ha inventata? Vicino là ti troverai bene, dentro tutti gli elettrodomestici. Naturalmente, nella satira e Nello sberleffo si deve lavorare sui luoghi comuni. Qua è Marina Confalone che lotta con la lavastoviglie in Così parlò Bella Vista. In realtà la tecnologia è qualcosa che ha in sé un'anima razionale e una sua poetica. Se entrambe le cose riescono a convivere in un giusto rapporto con l'essere umano, la macchina ci è amica. Se noi non ne cogliamo l'aspetto razionale e se noi ne ignoriamo la poetica, la macchina diventa qualcosa di ostile, diventa qualcosa che noi non capiamo, non comprendiamo. Io sono convinto che le donne abbiano un senso profondo di intuizione nel cogliere queste due nature della macchina e quindi di dominarle meglio di noi. 800240024, quali sono le macchine che dovete fare ogni giorno? Il vostro smartphone, il vostro telefonino, il computer portatile, il navigatore della vostra automobile, avrete messo sicuramente la voce che più vi aggrada, oppure dentro casa avete bisogno di una mano maschile per gestire le macchine della vostra casa? 800240024. A noi donne non interessa se la macchina si rompe, va bene? Non ci interessa proprio, noi siamo tranquille, riusciamo a gestire la cosa. Io sono stata 2 mesi col freno rotto, non ho avuto nessun tipo di problema. Quando dovevo frenare calcolavo la distanza e spegnevo il motore in corsa. Fatelo. Ma io direi che l'atteggiamento di noi donne è molto più onesto di quello degli uomini, che appena si rompe la macchina scendono e aprono il cofano. Ma che cosa ci apri che non sei in grado di fare niente? Tu li vedi messi là davanti, arrivano pure gli altri uomini, tutti messi là davanti, così. Perché l'uomo appena vede un cofano aperto, impazzisce. Si piazza là davanti, cioè, proprio, ah, che bello. Yeah. Poi, se il cofano non è il suo, ancora questa è meglio. Teresa Mannino, che si è un'attrice di Zelig, una comica di Zelig, che parla appunto di questa ambivalenza nel rapporto fra macchine e genere. Secondo lei gli uomini hanno una sorta di lussuria nel gestire certe macchine, ma aggiungo hanno anche riluttanza nel gestire altre macchine. Ma oggi la protesi individuale, emozionale, fortemente legata alla capacità di relazionarsi, è molto in mano alle donne. È molto facile vedere signore e signorine con dei vezzosissimi smartphone in mano, costellati di brillantine, con decorazioni Swarovski, intonati con la tinta dello smalto e loro unghie, che lo prendono, lo solleticano, ammiccano, con quello fanno intendere che chissà quali siano le loro relazioni segrete nascoste. È difficile riuscire a evitare che nelle occasioni anche conviviali pubbliche ci sia sempre la manina che corre e scorre sullo schermo, vede, segue il susseguirsi dei messaggi e si immagina che quella macchina così fortemente legata all'aspetto seduttivo, all'aspetto fascinatorio, faccia mai parte della femmina che la gestisce. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Come la pensa? Ma premesso che la tecnologia oggi io la trovo molto complicata, sia per uomini che per donne. Lo dissero anche quando videro la prima ruota, cos'è questa cosa che gira? Questo sì, nella mia esperienza infatti le mie amiche sembrano avere più difficoltà con la tecnologia. Il mio sospetto però è che le interfacce agli oggetti tecnologici come il televisore, computer o anche smartphone siano pensate fondamentalmente da uomini. Quindi per una donna la difficoltà non è tanto nell'usare la tecnologia in sé, ma l'interfaccia che non è disegnata da uno che la pensa come lei, come loro. Ecco, facciamo l'esempio dello smartphone, che, sì, che è lo strumento, diciamo, ormai che si vede più nelle mani sia di uomini che di donne. Secondo lei perché è maschile? Ma allora, per lo smartphone vorrei fare una differenza. Il primo smartphone che ha conquistato le donne è stato proprio un prodotto, se posso nominare, ma sì, tanto, l'iPhone. Sì. È chiaro. Ma è vero che Whoopi Goldberg, ad esempio, fu la prima a mettersi in fila per avere il primo smartphone di Apple. L'Apple pone un'interfaccia, un'attenzione all'interfaccia molto forte. Poi è quello che ha le custodie più fighette, colorate. Gli altri hanno un'austerità che ancora è tipicamente dell'oggetto d'uso professionale. In realtà l'oggetto che lei ha citato può essere variegato nelle sue custodie, diciamo è molto più importante la custodia poi che il contenuto. Sì, c'è anche una componente di moda molto spinta, insomma, sono molto attenti alle però dirò di più, in mano alla donna l'uomo è quasi titubante, è una ostentazione coatta, burina, e funzionava quando ancora era un oggetto abbastanza ricercato. Oggi non esiste bancarella di cinese che non ne abbia molteplici copie, li vedo in mano a chiunque. Agli inizi poteva avere un'idea di status, ma in mano alla donna tuttora lo smartphone è la dimostrazione, è un po' come i tacchi a spillo, è un po' come il rossetto, è un po' la dimostrazione che lei ha un potere seduttivo nascosto, perlomeno io lo vedo in questa direzione, poi mi sarò senz'altro contraddetto, vituperato e preso a pietrate. No, su questo sono d'accordo, è sicuramente un accessorio di moda, perché poi ovviamente anche nell'evoluzione di questi oggetti... Sì, ma io sto facendo un passo avanti, oltre alla moda abbiamo già deciso che è di moda, dall'idea che la donna abbia comunque una rete di relazioni che gestisce, è poliandrica nelle sue estensioni sottili e subliminali, questa almeno secondo me. Alessandro, lei cosa ne pensa? Sì, buongiorno a tutti. Non sono pienamente d'accordo con quanto sta dicendo Giorgio o Sergio, non ricordo il nome. Giorgio. E ritengo che la donna, innanzitutto, non è, diciamo, come è stato detto all'inizio della trasmissione, il personaggio, chiamiamolo così, che più si adatta alla tecnologia, ovvero sia, mi spiego meglio, è colei che ne usufruisce sicuramente, molto più dell'uomo. Però mi darà atto, dagli anni 60 agli anni 90, in famiglia era la donna che si occupava delle macchine di casa. Se ne occupava perché ne usufruiva, quindi le utilizzava. Beh, ma chiunque se ne occupa... Ma se si parla di tecnologia e di capacità della donna nel inventare qualcosa... Sì, questo è un altro piano, è un'altra questione molto discussa. Sì, gli uomini inventano tecnologia. Per quanto riguarda il discorso del telefono, sicuramente il telefono è donna, nel senso che è un oggetto che la donna ha fatto suo sin dall'inizio, sin dal tempo dei telefoni bianchi, quindi è un oggetto di comunicazione che per la donna è vitale, credo, molto più dell'uomo. Oggi che è ancora più intrigante, è ancora più connesso intimamente proprio alla natura fisica, oggi il telefono è un prolungamento di noi. Il telefono portatile attualmente ha rivoluzionato il modo di vivere, se si pensa per esempio al rapporto lavoro telefono, quindi la possibilità di poter stare fuori casa e nello stesso tempo gestire il proprio lavoro, essere sempre reperibile, eccetera, è sicuramente una rivoluzione. In più c'è il discorso che la donna, proprio perché la sua caratteristica la porta a comunicare, quindi essere sempre in contatto con tutti, a dover sempre cercare o essere cercata da qualcuno, utilizza il telefono in modo molto più massiccio rispetto all'uomo, quindi ha un rapporto con il telefono molto più... Mi piacerebbe, la ringrazio Alessandro, sentire cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Tutte volte le coinvolgo di persona facendo una chiamata di genere, è sempre devo sempre lottare con una sorta di riluttanza istintiva. Alle donne non piace parlare di loro, non piace parlare dei loro rapporti segreti con le macchine, probabilmente. Ma vi prego, 800 24 00 24, usate quella macchinetta che avete in mano, che avete in tasca, raccontatemi qual è il rapporto che avete appunto con l'oggetto con cui mettete in comunicazione con la nostra trasmissione, chiamando all'800 24 00 24 e in generale ditemi se dal vostro punto di vista hanno ragione gli due uomini che hanno parlato, che hanno detto che in realtà sì, è un oggetto vezzoso, è un oggetto che fa parte della vanità femminile, ma in realtà le macchine appartengono agli uomini perché sono loro che le pensano. Io ti dico che ho un rifiuto grandissimo per il computer. Ho fatto corsi, cioè mi sono impegnata, ho comprato, eccetera, l'ho annullato. Però ho scatole di fotografie, di lettere, perché io ho bisogno anche nel ricordo di un contatto quasi fisico, di poter tangibile, diciamo, oppure di guardare la fragilità, la forza delle persone, anche nei suoni, negli occhi, e credo solo in quello. Amen. Noi per corroborare quelle che sono nostre vane intuizioni, ma non è detto che si appoggino su realtà concrete, ci siamo fatti aiutare da Davide Rossi. Davide Rossi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Davide Rossi è il direttore generale dell'AIRES, che è l'associazione italiana retailer elettrodomestici, cioè i rivenditori di elettrodomestici, che hanno fatto una ricerca proprio su quale sia il rapporto che hanno le donne, in particolare con smartphone, con i tablet, con questi oggetti tecnologici che mettono in comunicazione. Vediamo di dare qualche dato, innanzitutto come avete articolato questa ricerca e cosa ne è venuto fuori. Prima di tutto, se posso dire una cosa prima ancora dei dati, perché poi i numeri rischiano di essere freddi e le suggestioni che sono già venute fuori da questa discussione di stamattina personalmente le condivido a prescindere, ma poi lo andremo a vedere nei dati. Questi, soprattutto la capacità di usare gli smartphone è vista anche come una forma di segno di giovinezza, ecco, meglio dell'antirughe per alcune delle consumatrici, perché dimostra che c'è un'attenzione all'innovazione, a quello che arriva nel futuro. C'è una scena, visto che molto spesso si parla di cinema, tipica in Sex and the City, quando viene dato a Jessica Sarah Parker il nuovo iPhone e le dice: voglio un telefono normale per chiamare. Nella nuova versione di Sex and the City lei usa l'iPhone. Non penso sia product placement, penso sia la voglia di far vedere che queste giovani donne metropolitane sono attente anche a queste innovazioni, e essere un passo indietro potrebbe essere negativo. Ce lo dicono comunque anche i dati. Noi abbiamo fatto anche, perché mi scusi Rossi, per fare una distinzione proprio iconografica, la conquista del telefono individuale nelle generazioni attempate ci ha messo un po' di tempo, però è arrivata. Oggi i pensionati sono i grandi consumatori di telefonia mobile, soprattutto per segare le palle ai nipoti, ai figli, ai parenti, per informarsi continuamente, per dare informazioni sulla propria salute. Ma hanno dei telefonini molto antiquati, con grossi tasti, dei modelli di 6-7 anni fa, che usano sempre con grande difficoltà, cercando campo, arrabbiandosi, urlando, dicendo che è colpa degli altri perché loro non sentono, e via dicendo. Il passaggio sullo smartphone, che richiede comunque una delicatezza di tocco e un approccio poetico diverso, naturalmente, come giustamente ha visto lei, intuito lei, fa parte di un rapporto più contemporaneo con la tecnologia. Assolutamente sì, e questo ce lo dicono anche i dati. Naturalmente c'è purtroppo una segmentazione di età, in un paese in cui c'è una componente molto grande di popolazione sopra i 45 anni, c'è questa proprio barriera che vede quei consumi non crescere più di tanto. Sotto quella fascia o sopra quella fascia, nelle fasce di reddito e di cultura superiori, si riesce ad arrivare a percentuali che sono quasi paragonabili tra uomini e donne. C'è poi un vantaggio ulteriore che la ricerca ci dice: il 20% delle donne che usano uno smartphone o un tablet lo hanno ricevuto come regalo, quindi è anche considerato un regalo, come dire, molto apprezzato e molto fatto. Quindi diciamo che per un annetto circa ci ha tolto l'angoscia di cosa regalare. Era un regalo sicuro, ecco, regalare uno smartphone si faceva sempre comunque un bel effetto. Assolutamente sì, e soprattutto in quella logica che si diceva prima, della libertà, non voglio dire della poliandria, ma insomma nella possibilità di essere connessi non soltanto con la persona che l'ha regalato, ma è l'apertura di mentalità che è interessante. Poi non so se ha visto le ultime pubblicità degli ultimi modelli di smartphone, c'è una donna che lo regala a un uomo, adesso non ricordo la marca, non mi interessa. E mostra quest'uomo affascinante, bello, stupendo, che però la caratteristica di questo telefono, di questo smartphone, è a due schedine SIM. Quindi appena la donna, consumato l'abbraccio, il ringraziamento, si allontana, lui con la seconda SIM chiama l'altra donna. Quindi si articola ancora di più l'oggetto in delle possibilità ancora più malandrine e quindi più seducenti. Stringi sempre il tuo iPhone in mano, mandi messaggi ma non rispondi a me. Come ho capito che non sei serena con tutti i graffiti. Non posso dire il titolo di questa canzone alla radio, perché diciamo un invito piuttosto colorito ad andare in un luogo impronunciabile che fa un ragazzo tradito alla propria ragazza, Lui è tradito al punto tale che nel video che accompagna questa canzone di Riccardo Alemanno ha delle lunghe corna e dice che in realtà comincia a avere qualche avvisaglia della non cristallina fedeltà della sua fidanzatina, perché vede che continuamente, mentre lo guarda con gli occhi dolci e lui è rapito della sua bellezza, lei digita continuamente con il suo smartphone in mano e quindi capisce, immagina, intuisce che in realtà i prolungamenti emotivi della sua ragazza vanno ben oltre la esclusività del loro rapporto. Chiara, buongiorno. Oh, finalmente arriva alle donne. 25 anni. Sì, sì, esatto. Beh, in realtà penso che il rapporto tra le donne e la tecnologia sia molto inficiato anche dalla generazione a cui si appartiene. È chiaro. Quando io ero piccola, quando avevo 10 anni, i videogiochi, le console erano le prime ed erano estremamente affascinanti. E quindi anch'io, che i miei genitori me ne hanno acquistata una. E da lì è stato poi un crescendo, quindi io mi ricordo Sega Mega Drive, poi è arrivato i primi computer, poi è arrivata la Wii, poi è arrivato lo smartphone. Quindi in realtà noi donne siamo molto nella tecnologia. Sì, lei poi guarda in avanti, perché lei non si guardava dietro le spalle, lei attendeva regali da parte dei genitori, ma cosa gestiva sua madre in casa probabilmente non se lo ricorda, e erano anche quelle macchine abbastanza complesse, anzi forse molto più complesse e diciamo da usare attenzione nel gestirle che poi le console, i videogiochi, le immagini, la responsabilità nel trovare, lo dico perché per me è una cosa che ancora non sono riuscito a capire. È vero, ma in realtà quello che l'uomo aveva in mano era banalmente la riparazione, perché io mi ricordo la mia mamma quando sbagliava le dosi del detersivo, era una tragedia e lì interveniva il papà, ma altrimenti la lavatrice, l'uomo non sa neanche come si programma. Assolutamente, pulire quindi il filtro alla lavatrice è un'attività che gli uomini fanno sempre con grandi difficoltà, che fa un po' schifo, toglie quel tappeto di peli, di lanugine e di schifezze che fa allagare il pavimento del bagno. Grazie Silvia, buongiorno Silvia. Ciao Silvia, ciao. Dunque io vi chiamo perché insomma stavo ascoltando un attimo e secondo me è proprio triste ricevere uno smartphone per regalo, che tristezza. A molti non fa tanta tristezza, sai, doverselo comprare è più triste tutto sommato secondo me. Forse perché considero questi elettrodomestici moderni, diciamo. Come perché tu non apprezzi regali di tipo elettronico? Mi piacerebbe, che ne so, un completino intimo, un vestitino. Un uomo mica può andarti a comprare il perizoma, dai, imbarazzante. No, vabbè, quello no, quello è bruttissimo. No, sada maniaco l'uomo che va a comprare la biancheria intima, sembra che una donna non è capace a comprarsela da sola. Beh, però insomma, c'è qualcosa di misterioso lì. Comunque, ti sì, volevo scusami, raccontare questo. C'è qualcosa di misterioso, ma sì. Solo l'idea che un uomo vada in un negozio specializzato a comprarti le mutande, non lo trovi che sia, a me lo trovo un po' ridicolo, è l'antitesi di ogni attizzamento, poi ognuno la vede come vuole. Vabbè, infatti, ognuno poi la vede come vuole. Cioè, comunque, il compito dell'uomo è deprivare semmai della biancheria intima, non di aggiungerla, comunque poi ognuno la vede come vuole. Comunque diciamo tu allora il regalo di tipo elettrodomestico non lo consideri un regalo romantico, ecco. No, no, affatto, affatto, tutt'altro, anche perché poi gli usi che se ne fanno a volte sono così contraddittori. Beh, se non ne fa usi impropri è un altro discorso, ma esistono elettrodomestici specializzati per ogni piacevolezza, quindi c'è una ricca scelta anche in questo. Sì, è vero. Comunque, da parte mia il cellulare a volte lo considero proprio come una cosa, come un pettine che riesca a sgrovigliare le mie solitudini, perché per esempio ieri era domenica, a Milano era bruttissimo, me ne stavo a casa da sola, non sapevo che fare, mi sentivo un po' così e ho iniziato a scrivere messaggini ridicoli a gente che non sento da un anno, per esempio. E quindi ha boccato qualcuno il tuo amo? Ma sì, sì. Beh, vorrei vedere. Sarà stata tediosa anche per loro. Poi fa sempre piacere, guardi. Diciamo, le minestrine riscaldate non sono poi sempre così schifose da mandare giù. La ripresina ogni tanto ha il suo vantaggio, perché se ci tu vuole. Però vedi, In questo capisci che la tecnologia è utile, è uno strumento di gestione delle relazioni. Tu avrai nel tuo smartphone, nel tuo telefonino, una serie di nomi meno frequentati. In una giornata noiosa, riportare in superficie alcune memorie che avesse seppellito e mandare un messaggio circolare di chiamata alle armi significa attingere a una riserva emotiva e relazionale. È come avere, che ne so, avere fame e trovare che c'hai delle cose buone surgelate, le scongeli e te le mangi. Ecco. È verissimo, è precisa questa osservazione. Lo so, sai. Mi sento un po' una falena comunque, sempre schiacciata con queste cose. Che no, le falene si bruciano davanti alla lampadina, non sono schiacciate. Si bruciano le ali perché vanno troppo vicino alla lampadina, stai attenta. Infatti. Davide Rossi, riprendiamo con lei. Davide Rossi, certo. Ricordo che è il direttore generale dell'AERES, che è l'associazione, per spiegare, che raccoglie tutti i rivenditori specializzati di elettrodomestici, che hanno fatto una indagine nei loro clienti e hanno visto, ci dirà adesso qualcosa, quale sia, diciamo, il rapporto che hanno con queste tecnologie di cui stiamo parlando, in particolare smartphone e tablet, se soltanto per moda che li acquistano, li comprano o se li procurano, o anche un apprezzamento per la tecnologia che gli permette di fare cose che non potevano fare prima. Beh, allora, anzitutto c'è da dire che tutti coloro che hanno risposto alle domande, nella grandissima percentuale, il 93%, si sono dichiarati tranquilli nei confronti della tecnologia. Solo una piccolissima parte dice di avere un rapporto ansioso con le tecnologie. Questo è dovuto soprattutto al fatto che ormai, insomma, si danno delle istruzioni molto molto ben fatte, ci sono anche delle indicazioni di legge che lo impongono in maniera chiara, quindi non capita mai di avere per le mani un oggetto e non essere in grado di utilizzarlo. Anche perché, Rossi, diciamo una certa, uno che soffre di ansia per gli apparecchiature elettroniche non entra in un grande rivenditore che è il paradiso per chi come me apprezza questi oggetti. Ma se uno li mettono ansia, fugge via, secondo me. Quindi lì già ci sono già persone in questi luoghi che hanno comunque un minimo di, secondo varie gradualità, di lussura per la tecnologia. Qualche anno fa c'era questo problema soprattutto con i computer, ci si sentiva un po' soli, smarriti, questi termini complicati da capire, devi installare l'applicazione. Adesso la parola applicazione è entrata nel lessico quotidiano, mentre una volta, quando diceva impossibile trovare l'applicazione che ha creato il documento, già tutti andavano nel panico. Beh, oggi è stato molto semplificato questo processo. Ora, anzi, proprio è la semplicità d'uso che è stata veramente l'elemento trainante di queste nuove forme di comunicazione, e vedo che anche chi, come l'ascoltatrice di prima, dice sono contrario, poi invece le utilizza proprio. Gli ha fatto svoltare un pomeriggio di noia. Quindi, e poi, tra l'altro, c'è il grande vantaggio che l'SMS serve a dire e a non dire, serve a intessere cose che potrebbero essere interpretate anche nel senso completamente diverso. Sì, poi c'è tutto il codice dei puntini, tre puntini vuol dire sono disponibile, due puntini forse sì, te la do ma non lo so, e via dicendo. C'è tutta un'articolazione anche su quello. E anzi, capita delle volte, devo dire la verità, questa sì è una differenza tra uomo e donna che però ormai nessuna ricerca evidenzierà, che quando un uomo scrive un SMS generalmente corrucciato e la donna invece è una specie di sogghigno da contessa di Castiglione dei tempi di oggi, quando scrive. Perché l'uomo c'ha l'ansia di prestazione, la donna sa che manda una freccia che aprirà una ferita, che lei gestirà poi il progredire di questa ferita. Questo poi è il mio punto di vista. 65% è addirittura entusiasta, e senza differenza tra uomo e donna, dell'utilizzazione di uno smartphone. Quindi l'ha comprato un po' forse per moda, un po' per curiosità, oppure l'ha ricevuto per regalo, e più lo usa, più lo userebbe, più si rende conto che si possono fare tantissime cose, anche intelligenti, e non soltanto cose così vaghe. Ecco, l'aspetto relazionale è importante. Hanno notato una modificazione, questa è la cosa a me più sta a cuore nel rapporto fra essere umano e tecnologia. Hanno notato un'articolazione diversa della loro relazione con l'uso di questi strumenti? Anche questo allo stesso modo tra uomini e donne. Cioè, dice, per stare al passo, per essere connesso con gli altri, e più o meno entrambi allo stesso livello dicono questo. Anzi, questa è la differenza di questo tipo di risposta, è dovuta al fatto anche che maggiormente gli uomini dicono, forse è anche vero, però soprattutto dicono, che la prima ragione per avere lo smartphone è il lavoro, mentre le donne lo dicono principalmente per lo svago e per il divertimento, però entrambi dicono allo stesso modo, con la stessa percentuale che è sopra il 50%, la ragione fondamentale per cui siamo contenti di questo acquisto è essere in contatto con gli altri. Ma perché gli uomini devono sempre simulare che l'oggetto del piacere abbia una giustificazione etica, sempre così. Le donne non hanno bisogno nella loro natura di giustificazione, insomma, noi ci poniamo problemi, quindi mi serve per lavorare, sto sempre davanti al computer ma sto a lavorare, sto lavorando, quando in realtà sappiamo che rare volte soltanto il frutto, il desiderio della lacrità che tiene un uomo incollato ore e ore davanti a un computer. Amore, amore, ascolta, mi serve assolutamente questa maglietta pulita per domani. Ecco, bravo, allora mettila in lavatrice. Ah, vabbè, ma che programma uso? Semplice, caro, leggi quello che c'è scritto sulla maglietta. Ah, va bene. Oh, ma dove la giro? Sulla F, sulla B o sulla I? La F, la B o la I? Ma cosa stai dicendo? Come si fa la lavatrice? Step 1, aprire la lavatrice. Step 2, riempire la lavatrice con i vestiti da lavare. Mettere un po' di... come cazzo si chiama? Detersivo? Non lo so, non è importante la quantità. E mettete anche un po' di... anche questo è l'uso di una macchina come supporto emotivo, come rassicuratore. Farsi un filmato e metterlo su YouTube attraverso appunto dei piccoli oggetti tecnologici alla portata di tutti, può essere uno smartphone, può essere una webcam, può essere una macchinetta digitale, ed elaborare un proprio problema raccontandolo agli altri. YouTube è il grande luogo dell'esposizione delle nostre ansie, dei nostri desideri, delle nostre gioie, ma anche dei nostri trionfi, dei nostri obiettivi raggiunti, della nostra vanagloria. E la pubblicazione di se stessa e il proprio pensiero su YouTube prescrive, prevede e necessita un minimo di conoscenza di alcune macchine, una macchina per riprendere, una macchina per fare un minimo di editing e di preparazione del file, una macchina proprio per pubblicare e proprio per vedere il frutto della propria pubblicazione. Quindi questo semplice video girato da una signora, signorina, una ragazza messo su YouTube, richiede una serie di procedure che appunto fanno parte oggi del corredo indispensabile anche per la propria socialità. Giovanni, buongiorno. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, chiudo la radio, grazie. Io chiamo per parlare delle console da videogioco di sì. cui sono state accennate da un'ascoltatrice. Esatto, infatti Chiara, le cose stanno cambiando, però Chiara, l'ascoltatrice di prima, faceva presenti tre modelli molto generalisti, mentre l'uomo, in una visione nerd, se vogliamo anche un po' umoristica, è un maniaco, questo... avrebbe detto la quintessenza dell'ultimo modello, avrebbe specificato. E ricerca una console forse per sopperire a una donna, se vogliamo. Ma l'uomo cerca tante cose per sopperire alle donne, cominciare dal trapano, fare un buco sul muro, ce ne sono tante di idee. Comunque, certo, anche questo. Io sono comunque completamente d'accordo con lei quando dice della difficoltà degli oggetti domestici anche come componenti elettromeccaniche. Una console da videogioco non sarà mai così complicata da utilizzare. Io anche perché diciamo il mercato richiede semplicità di interfaccia, perché più è semplice l'interfaccia più si allarga la percentuale delle persone che potranno usarla, sapranno usarla. Assolutamente, assolutamente. E infatti la Wii, che è l'ultima console generalista citata dall'ascoltatrice, è quella che ha allargato in maniera esponenziale a donne di ogni età. Si conta che al golf della Wii giocano addirittura pensionati. Almeno Sì, l'interfaccia diventa sempre più l'essere umano. Alla fine siamo noi che muovendoci interagiamo con il gioco. Pronto? Sì, sì, pronto Gianluca. Ecco, dicevo questo, il punto d'arrivo è che la macchina scompaia e penetri sempre più l'apparato fisiologico dell'essere umano che la usa, e l'uomo e la macchina diventino una cosa sola. E penso che anche il mercato sia ispirato a questa idea. Riccardo, sì, buongiorno a tutti. Io volevo portare, lavoro in un negozio di telefonia. Ah, quindi lei diciamo, ha il contatto immediato con l'utenza. Lavoro in un negozio di informatica, di Lodi e anche di telefonia. Molto interessante la discussione di stamattina. Io volevo portare diciamo un'opinione personale, visto che comunque sono a contatto tutti i giorni con il pubblico. Io ho notato che per quanto riguarda gli smartphone, l'uomo che entra in negozio dice: guarda, vorrei uno smartphone per lavoro, eccetera, eccetera. magari me ne fa tirare fuori 5-6, mi chiede tutte le caratteristiche tecniche, eccetera, eccetera, eccetera, perché ne ha realmente bisogno, è uno strumento che gli potrà servire. La donna entra in negozio molto spesso e dice: no, voglio questo smartphone perché l'ho visto alla pubblicità. Certo. E la cosa, quindi ci sono molti più acquisti impulsivi, ecco, rispetto all'uomo. E la cosa che mi fa sorridere è che spesso, magari rivedendo le stesse donne tempo dopo, dico: signora, come va il telefono? Ma guardi, veramente non lo sto usando perché sto usando il mio vecchio, perché mi trovo meglio. Quindi molte donne si trovano magari al momento, acquistano quell'acquisto impulsivo e poi rischia di restare nel cassetto a prendere la multa. Però lei mi insegna, visto che è il suo mestiere, che il doppio telefono prevede un doppio uso, cioè il telefono per il piacere, il telefono per il dovere, il telefono per gli impegni familiari, il telefono per gli impegni clandestini, quello che si ostenta e quello che si usa. Ma guardi, normalmente io ne vedo sempre un paio almeno nelle borsette, uno smartphone e un altro più domestico, diciamo rassicurante. No, guardi, io le dico, molto spesso le persone entrano, parlo anche magari di donne dai 40 anni in su, entrano perché magari le l'ha consigliato il figlio, il nipote, il cugino, quindi vengono molto, mi passi il termine, gasate, no? E escono ancora più gasate di quando sono entrate con il loro nuovo telefono, che non vedono l'ora di utilizzarlo. Poi magari sei al bar a bere il caffè, ti dicono: no, guarda, ti incontrano, ti dicono: guarda, utilizzo l'altro, bello come vuoi, ma io magari lo metto in borsa, non che ne so. Beh, l'importante è che siano emotivamente e passionalmente appagate. Questo è l'aspetto fantastico della natura femminile. Davide Rossi, direttore generale dell'AIRES, rispetto a quest'ultimo ascoltatore e alla sua esperienza, cosa ha da aggiungere? Effettivamente la nostra ricerca dice che il 29% si è dichiarata delusa dall'utilizzo di questi apparecchi. Ah, quindi diciamo anche il nostro modesto indicatore corrisponde alla vostra ricerca. Che non so fino a che punto sia attendibile, nella misura in cui è molto facile rifiutare qualcosa che non si è in grado di fare perché non si ha banalmente la voglia di mettersi e concentrarsi. Però Davide Rossi, io secondo me, poi lei è l'esperto, quando c'è una grande attesa emotiva nei confronti di un oggetto, l'oggetto non è può soddisfare questo tipo di attesa di felicità o di soddisfazione, poi deve essere usato, quindi lo vogliono, poi pensano chissà cosa possa aprire di universo e di mondo, ma magari occorre studiare un po' il manuale delle istruzioni, ecco. È questo, banalmente questo, c'è anche da dire che c'è un 10% che dice: io l'ho comprato solamente, unicamente per Facebook, quindi magari poi in Facebook non trova quello che sperava di trovare, quindi ecco già un 10% di delusi che dobbiamo detrarre dal conto del 29%. E quindi propria carenza di fascino viene attribuita all'oggetto. Probabilmente qualcuno si aspetta di diventare, appunto, che quell'antirughe che si diceva prima funzioni immediatamente. Non è così, sono strumenti tecnologici che sicuramente fanno cose molto utili. E poi devo dire la verità, lo dico anche un po' a nome dei una piccola mia parte, se mi consente di farla, nei nostri punti di vendita ci sono venditori molto esperti e assistenti molto esperti. Se qualcuno ha proprio una difficoltà, può anche fare a meno di leggere il libretto di istruzioni, tornare e farsi spiegare bene come funziona dai nostri addetti, che sono molto bravi e molto disponibili. La ringrazio, Davide Rossi, ricordo direttore generale dell'AIRES. Ringrazio ascoltatore e ascoltatrice, questa mattina hanno confermato l'idea che la tecnologia è qualcosa che va molto oltre una semplice macchina, un semplice oggetto inanimato, qualcosa che accende anche le nostre speranze e amplifica molto le nostre emozioni. A domani. Alors tous deux on est partis dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.